La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi precisi, qui in diretta dallo studio di Milano. Oscar Giannino, come sempre, vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. E va subito all'argomento della giornata per consentirvi di telefonare all'800240024 per gli sms, il solito numero, lo conoscete, 349-238-6666. Parleremo della libertà negata a tutti noi cittadini italiani e contribuenti italiani, però cittadini, agli atti, ai dati, ai documenti pubblici nel nostro paese. Viviamo in un regime, anzi in un ordinamento le cui norme rendono molto opaca l'elaborazione di documenti in base ai quali si assumono decisioni, i trattamenti di livelli elevati dirigenziali della pubblica amministrazione, la possibilità di capire a chi si applicano magari certe misure sempre nella pubblica amministrazione. E questo regime di trasparenza opaca, oltre a essere un'eredità di una impostazione autoritaria della pubblica amministrazione, fa a pugni con la possibilità di noi tutti, in quanto cittadini, ma in quanto consumatori, in quanto contribuenti, di esercitare i nostri diritti. Vi faccio solo due esempi, tra i tanti che potrei fare, per chiedervi un'opinione, se voi ritenete che sia giusto che resti così, oppure se invece ritenete il contrario. Parleremo di questo perché vi spiegheremo che uno dei 10 decreti legislativi di attuazione della riforma Madia approvati dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana è esattamente inerente il tema della libertà di accesso ai dati e alle informazioni della pubblica amministrazione da parte dei cittadini. Però vi spiegheremo che è stato presentato in un modo, ma il testo che è a nostra disposizione purtroppo dice un'altra cosa. Questa ve la spiegheremo più avanti, ma innanzitutto vi faccio i due esempi. Primo esempio, per esempio la RAI. La RAI, di cui quest'anno, come sapete, da luglio dell'anno prossimo pagheremo tutti il canone in bolletta elettrica, eccetera, eccetera, eccetera, misura assunta per diminuire il tasso di evasione stimato al 27% di questa che è la tassa di possesso e non certo il canone della televisione, formalmente è diventata tassa di possesso per evadere da aggirare il no che era stato detto al canone, e adesso viene annegata in una tariffa quella elettrica. E tra l'altro ne colgo l'occasione per ricordare a tutti che il facsimile, il formato della dichiarazione di autocertificazione, non è ancora stato emanato dallo Stato, e siccome non si può fare autocertificazione fino a che non c'è il format, più passa il tempo più io avrò il legittimo sospetto che prima vogliono incassare tutto l'incassabile e solo dopo ci consentiranno naturalmente di autodichiarare che ci hanno messo il canone in bolletta, ove non sussistesse il requisito che è quello per doverlo pagare, cioè quello di una residenza anagrafica che coincide con il canone elettrico. Allora, detto questo, domanda. Ancora oggi, in presenza di queste nuove norme per pagare il canone RAI, per pagarlo tutto, eccetera, eccetera, saranno centinaia di milioni in più che entrano nel bilancio della RAI quest'anno, noi non abbiamo titolo per sapere i nomi e i cognomi dei dirigenti RAI che vengono pagati di più. La RAI su questo ha sempre opposto la tutela della privacy dei dirigenti. È giusto secondo voi che chi in realtà sta in un'azienda al 99,9% del tesoro, rimanente 0,01, fa capo alla SIAE, abbia diritto, quindi un'azienda pubblica, pubblicissima, abbia diritto alla privacy? Primo esempio, secondo me la risposta è no, con un bel punto esclamativo. Secondo esempio, la sentenza della Corte Costituzionale l'anno scorso, che accogliendo la tesi sostenuta da alcuni matti come sottoscritto per anni, cioè quella dell'illegittimità dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate non nominati per concorso ma con incarichi a tempo ad personam e che avevano organizzato l'agenzia secondo cordate di obbedienza personale, nell'interpretazione dei criteri ovviamente con cui fare gli accertamenti, no? Non sto parlando di obbedienza in violazione delle leggi. La Corte Costituzionale, come vi ricordate, dichiarò illegittimi centinaia di documenti dell'Agenzia delle Entrate, quasi 800 solo dell'Agenzia delle Entrate, quasi 1000 sommando le altre agenzie tributarie. Anche in quel caso gli elenchi nominativi noi li abbiamo dovuti ricavare sui siti, ce li siamo passati noi giornalisti che si occupano di cose tributarie l'un con l'altro, dandone anche accesso ai contribuenti che ce li chiedevano per le impugnative, però formalmente nessuno di quegli elenchi era ufficiale, perché anche in quel caso l'Agenzia delle Entrate non era tenuta a informarci sui nominativi dei dirigenti illegittimi, e naturalmente questo era il presupposto per poter fare delle impugnative e quindi in quel caso c'era una violazione non solo del diritto all'informazione, c'era anche, a mio giudizio, una patentissima violazione del diritto ad azioni giudiziali commisurate al fatto che se avevate ricevuto o avevamo ricevuto dei titoli esecutivi nati da decisioni e richieste di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, almeno nei termini della prescrizione previsti dalla legge, quegli atti erano illegittimi e quindi bisognava essere nelle condizioni di poterli impugnare, ma senza l'elenco nominativo formale dell'amministrazione pubblica era impossibile farlo. Allora io mi fermo a questi due soli esempi che spero diano l'idea di che cosa stiamo parlando. Allora, questo governo fin dall'inizio annunciò che la sua intenzione era quella di emanare una norma assimilabile a quello che si chiama il Freedom of Information Act degli Stati Uniti. È una norma che venne adottata negli Stati Uniti addirittura nel 1966 sotto il presidente Lyndon Johnson, è stata più volte emendata ed estesa consentendo sempre più ampi diritti ai cittadini americani nei confronti di ogni amministrazione pubblica, ente società che faccia capo all'amministrazione federale degli Stati Uniti d'America, è stata aggiornata ovviamente anche ai file digitali, alle comunicazioni elettroniche, questo fin dagli anni 90. E la settimana scorsa, appunto, nel Consiglio dei Ministri, in cui sono state adottate le altre norme, quelle su partecipate, ce ne siamo appena occupati qualche giorno fa, e poi naturalmente quella di cui si sono occupati tutti, quella sui licenziamenti in 48 ore dei furbetti del cartellino, c'era anche un decreto legislativo dedicato a quello che è stato annunciato come il Freedom of Information Act americano in Italia. Tutto risolto quindi? Abbiamo finalmente avuto il diritto di conoscere i nominativi dei dirigenti RAI, il diritto di conoscere i nominativi dei dirigenti legittimi dell'Agenzia delle Entrate? Abbiamo il pieno diritto all'accesso delle ricevute di pagamento di tutti i sindaci? Ricordate a Firenze la polemica su Renzi due mesi fa, intentata dal Movimento 5 Stelle da una parte in Consiglio Comunale, ma dal Fatto Quotidiano che rilanciava ogni giorno la faccenda. È proprio così? Beh, vediamo. C'è un ospite che ha approfondito esattamente il testo di questo decreto legislativo, il testo che ci è noto, non è ancora quello definitivo, però è quello che è entrato in Consiglio dei Ministri, e vediamo che cosa ci racconta. È una giurista che si occupa con grande passione e competenza di queste cose, si chiama Vital Bazzolini e io la ringrazio di essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Allora, che cosa dice questo testo? Siamo diventati americani e c'è piena trasparenza? Ma apparentemente sì, nel senso che abbiamo sovvertito, il legislatore ha sovvertito quello che era il paradigma precedente, cioè secondo l'impostazione della legge precedente, che era una legge del 1990 sul procedimento amministrativo, la richiesta di accesso agli atti della pubblica amministrazione doveva essere motivata e essere sostenuta da un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti e dei documenti dei quali si voleva venire a conoscere. Quindi c'era la necessità di quello che si chiama in termini amministrativi un interesse legittimo. Esattamente, un interesse a conoscere, quindi una motivazione su un interesse proprio, e la richiesta doveva essere motivata. Con questo decreto approvato qualche giorno fa viene ribaltata l'impostazione, cioè posso chiedere alla pubblica amministrazione atti e documenti anche in mancanza di un interesse mio personale diretto alla conoscenza di quell'atto, quindi anche in maniera totalmente motivata. Questa è la prima. Bene, perché sottolineo a chi ci ascolta che questo è il presupposto per poter fare informazione, cioè non è che io debba avere un interesse nell'atto in quanto Scargiannino, ma come giornalista e come per fare il mio mestiere e informare ne ho un diritto, per così dire, un interesse lato senso, ma non è quello che si chiama l'interesse legittimo in termini amministrativi. Allora procediamo, quindi molto bene questa premessa. Questa è la prima premessa, poi addirittura una rivoluzione, se vogliamo, ancora più ampia, perché le leggi in materia di trasparenza sono state diverse. Allora, la prima legge sul procedimento amministrativo, abbiamo detto, nel 90, poi c'è stata la legge Brunetta che ha cambiato nel 2009 impostazione, dicendo: guardate, al di là dei documenti che potreste avere interesse personale a conoscere, l'amministrazione rende pubblica, è obbligata a rendere pubblica una serie di altri atti e documenti, e la legge elencava espressamente quali dovessero essere. Diciamo che già quella legge imponeva la pubblicazione sui siti di alcune informazioni, non era proprio molto chiara, queste informazioni non sostanziavano in realtà una vera e propria trasparenza, perché erano abbastanza complesse, sono state rese ancora più complesse poi nel 2012 dalla legge sulla anticorruzione, e poi ancora ulteriormente sono state ampliate le informazioni che dovevano essere pubblicate sui siti della pubblica amministrazione dal cosiddetto decreto trasparenza sotto il governo Monti. Che cosa succedeva? Quindi da un lato avevamo questo doppio binario: la richiesta che poteva essere avanzata dal singolo a conoscere atti di proprio interesse, e poi l'obbligo gravante sulle amministrazioni di pubblicare una serie di dati sui propri siti web, una serie di dati che più che fare trasparenza facevano opacità per confusione. Questo era lo scenario su cui è intervenuto questo decreto dell'altro giorno. Il secondo, quindi dicevo, la seconda rivoluzione è stata quella di passare da una trasparenza di tipo proattivo, cioè l'amministrazione, il legislatore che decide gli atti che l'amministrazione deve rendere nota, a una trasparenza di tipo reattivo, cioè l'amministrazione è tenuta a rispondere alla richiesta del singolo di conoscere atti e documenti. Quindi questo sarebbe stata la rivoluzione. Che cosa ci siamo trovati di fronte? Ci siamo trovati di fronte in realtà a una disposizione molto laconica che ci dice: qualora tu cittadino decida di chiedere un atto, un documento alla pubblica amministrazione, se decorrono 30 giorni senza che l'amministrazione ti risponda, la tua richiesta si intende respinta, senza alcun obbligo di motivazione. Come sarebbe a dire? Dopo queste premesse rivoluzionarie, cari ascoltatore, la risposta è: tutti liberi di chiedere. Entro 30 giorni non ci rispondono, fine. Questa è la rivoluzione? No. Esatto. Però, cittadino, se vuoi, puoi sempre ricorrere in tribunale. Ah, certo, certo. Puoi sempre ricorrere in tribunale. Ma non c'è neanche l'obbligo di risposta. No, non c'è alcun non obbligo c'è l'obbligo di, risposta, di motivazione della risposta. No, né di risposta né di motivazione della risposta. Di conseguenza il cittadino, il povero cittadino, non sa se la richiesta non è stata accolta perché l'amministrazione è inefficiente, ovvero non l'ha processata, come si dice, cioè non l'ha trattata. Oppure non l'ha trattata, oppure perché magari lui ha fatto una richiesta che è andata a invadere un ambito coperto da segreto, perché questo è l'altro profilo molto poco rivoluzionario, vale a dire le eccezioni alla pubblicazione sono moltissime e sono variamente interpretabili ed estendibili. Passiamo dalla sicurezza nazionale alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, quindi c'è di tutto. Teoricamente un'amministrazione, ammesso che voglia motivare, potrebbe in realtà ancorarsi a qualunque di queste eccezioni, ma non deve neanche fare questa fatica. Le basta non rispondere e finisce tutto così, insomma. Allora, prima che io ti faccia una domanda a cui poi risponderai dopo l'interruzione di un minuto sul traffico, di come funziona, farci capire meglio come funziona davvero negli Stati Uniti e negli altri paesi, io voglio riflettere con voi tutti in ascolto su questa faccenda. Non è uscita una sola riga su nessun organo di informazione fino a questo momento, o meglio, tutti si sono limitati, come sempre avviene sotto questo governo, in particolare, veniva anche prima, ma in questo è diventato un metodo, a ripetere la slide, delle 10 slide ciascuna per decreto, che alla sera del Consiglio dei Ministri sono state consegnate ai giornali, nella quale venivate invece informati che finalmente c'è il pieno accesso alle informazioni e ai dati della pubblica amministrazione. Viva la trasparenza, misura rivoluzionaria. Le premesse avete capito che effettivamente parrebbe così. Nella sostanza, con una riga, l'oculato legislatore ve l'ha messa ancora più profondamente nel fondo schiena, perché non avrà neanche bisogno di dedicare un secondo alla risposta, che certo adesso avete tutti diritto di inoltrare. Tutti diritto di essere presi, se mi permettete, per i fondelli. Allora, io di fronte a cose simili rimango senza parole. Non tanto perché il governo osa scrivere cose simili, perché non mi sorprende di nulla. Forse non se ne sono neanche resi conto, non lo so, visto che il ministro Madia poi in televisione non sapeva che i dirigenti da cacciare, se non adottano in 48 ore la sospensione per licenziamento dei furbetti del cartellino, non è affatto passibile di reato e licenziabile, come ha detto subito lì per lì. Però detto questo, forse non se ne sono accorti, non lo so. Però la cosa incredibile è che il testo girava già da prima, perché i testi su cui Vital Bazzolini ha fatto i suoi approfondimenti sono i testi entrati in Consiglio dei Ministri. Eppure a nessuno è fregato niente il fatto di controllare. Quindi da una parte sottolineo una cosa che spero il governo voglia correggere. Dall'altra però c'è anche un problema che riguarda noi dell'informazione, perché ci stiamo così tanto abbeverando, ripeto, questo riguarda qualunque governo, non faccio una questione solo al governo Renzi, senza più mettere in discussione quello che ci viene raccontato andando a leggere i testi, che veniamo meno al fatto che veniamo pagati per fare questo mestiere. Perché a me viene da dire che tanto vale abolirci, perché tanto facciamo dei passacarte se non andiamo a leggere, se non chiediamo il parere di chi è competente e se poi non ve lo giriamo, perché questa è la cosa fondamentale per cui deve esistere un'informazione. Quindi, come vedete, batto il petto sul mio, ripeto, prima che prendermela con i politici. Però questa si chiama presa per il culo. Dire che c'è la libertà di accesso se basta non rispondere in 30 giorni senza neanche motivare il perché non vi hanno risposto. Ci sentiamo tra un minuto per vedere come funziona altrove. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a 16:48 primi e 45 secondi. Vi abbiamo raccontato quello che si capisce dal decreto legislativo di attuazione tra i 10 della riforma della pubblica amministrazione Madia approvati nel Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, quello relativo alla cosiddetta libertà di accesso ai dati e ai documenti della pubblica amministrazione. Ottima premessa, tutti finalmente hanno facoltà di chiedere, non più solo chi aveva un interesse legittimo. Peccato però che se l'amministrazione pubblica non risponde in 30 giorni, sì, potete andare in tribunale, ma intanto li finisce la cosa, senza avere modificato l'estesissima lista di materie sulle quali in ogni caso non avreste diritto comunque a sapere le cose. Ma Vital Bazzolini, come funziona per esempio negli Stati Uniti, cui tutti si riempiono la bocca citando il Freedom of Information Act? Ma mi permetto solo di aggiungere ancora un'altra cosa, perché non è finita. Quindi, certo. Cioè, la pubblica amministrazione non viene neanche sanzionata laddove legittimamente neghi diciamo di rendere pubblico un atto che le sia stato richiesto, perché in realtà anche questo è un elemento, al di là della mancanza di motivazione, non sono neanche previste sanzioni specifiche laddove questo silenzio di 30 giorni sia stato illegittimo. Quindi comunque il cittadino aveva comunque diritto, perché l'atto non era coperto da segreto, cioè quindi oltre il danno la beffa, ecco. E questa è una delle differenze rispetto a ordinamenti stranieri, e ce ne sono molti, quindi non c'è solamente questo diritto nell'ambito dell'ordinamento statunitense, ma ce ne sono molti, molti altri ordinamenti in cui vige questo Freedom of Information Act. Anche se sì, non è soltanto in inglese. Quindi c'è da tenere presente che per esempio l'Italia, in una classifica del rating sulla trasparenza che viene proprio redatta tra l'altro anche in relazione a questo tipo di normative, occupa uno degli ultimi posti su un 110-120. Quella di Transparency International. No, ce n'è ancora un altro, proprio il Right to Information Rating si chiama, ed è proprio appunto questo rating sulla disponibilità dello Stato a fare trasparenza su tutto quanto attiene alla propria amministrazione. Quindi diciamo che anche per questo motivo c'era molta attesa con riferimento a questo decreto. Ecco, altrove, ad esempio negli Stati Uniti, che è appunto l'esempio che viene citato normalmente, chiunque ha questo diritto di accesso, e una serie di scandali che sono avvenuti in quel paese sono stati resi possibili proprio grazie ai watchdog, quelli che richiamavi poco fa, che hanno comunque cercato di comprendere come fossero andati determinati fatti, avvenimenti portati poi alla ribalta, proprio avvalendosi della richiesta che viene formulata in relazione a questo testo di legge e che viene formulata anche in maniera relativamente semplice. Vale a dire, basta riempire un form che si trova appunto pubblicato sul sito apposito a questo punto previsto proprio per questa finalità, e il cittadino può fare questa richiesta di accesso. Ora, e questo l'altro dubbio che mi viene con riguardo al testo di legge italiano. In Francia, per esempio, recentemente, in Spagna è stato recentemente adottato questo testo sulla trasparenza analogamente a quello italiano. Che cosa succede? Le amministrazioni hanno previsto una serie di adempimenti per poter formulare questo accesso agli atti, quindi l'autenticazione su siti web, PEC e altro, rendendo estremamente difficoltoso per il cittadino formulare la richiesta di accesso. Quindi, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, il mio timore è che un'amministrazione molto poco disponibile alla trasparenza possa a propria volta rendere difficoltoso l'avvicinamento del cittadino con delle formalità che rendano ancor meno applicabile questa normativa, tant'è vero che in Spagna non ha sortito gli effetti sperati proprio per queste, diciamo, formalità burocratiche che hanno portato l'amministrazione a negare l'accesso proprio perché non rispettati i requisiti formali. Ora, quindi anche questo, vedremo come verrà attuata. Sì, sì, non penso che altrove sia il paradiso, però dal punto di vista formale adesso, visto che siamo all'emanazione di un decreto delegato, un decreto legislativo che esercita la delega parlamentare sulla riforma della PA, a questo punto ricordiamo, per cercare di capire, si riuscirà a modificare, cosa avviene adesso? Un decreto delegato va alle commissioni parlamentari, che però possono dare pareri, non sono obbligatori. Esatto, ed è su questo che si conta, perché come abbiamo visto ormai i testi normativi vengono pubblicati, quelli approvati in Consiglio dei Ministri molto tempo dopo, proprio probabilmente per vedere, come mi viene da pensare, l'effetto che fanno e eventualmente poi apportare anche le modifiche che si rendano necessarie. Quindi da parte delle associazioni interessate, non da ultimo il Freedom for Italy, che è stato il Foia for Italy, che è stato comunque un'associazione molto attiva per l'approvazione di questo testo, addirittura un'associazione che aveva posto 10 punti fondamentali perché si potesse parlare di un Freedom of Information Act italiano, e di questi punti alcuni sono stati recepiti, altri no. Quindi stanno già adesso chiedendo determinate modifiche, tra le quali ad esempio la sanzionabilità della pubblica amministrazione, perché comunque il testo si dimostri un po' più efficace di quello che abbiamo visto essere al momento, secondo le bozze che sono circolate. Ma ricordiamo che negli Stati Uniti, intorno all'accesso ai documenti, ricordate, tutti insomma sanno più o meno il Watergate rispetto a Nixon, il presidente degli Stati Uniti che in campagna per la rielezione spiava, no, al quartier generale di avversari elettorali, e come questo ha avuto un impatto fortissimo sulla vita politica istituzionale degli Stati Uniti, ma sulle regole. Al di là del diritto di accesso da parte dei cittadini con risposta motivata e con sanzioni da parte della pubblica amministrazione, Vitalba, non ci sarebbe anche caso di sfoltire e abbattere significativamente le aree che comunque restano tutelate da riservatezza e segreto nel nostro paese, cioè un paese in cui non sappiamo ancora un piffero di quello che c'è davvero negli archivi su vicende, se non è la magistratura nelle indagini e nei processi a tirar di fuori Ustica e così via, cioè, ha senso? Certo, perché altrimenti questo diritto di conoscenza nel momento in cui viene compresso dal segreto, quindi dall'ampio numero di fattispecie di segreto che sono previste nel testo e che possono e che sono formulate anche in maniera abbastanza generica, quindi possono essere ampliate a seconda delle esigenze del momento, probabilmente, ecco, se non si opera in questo senso, quindi non si riducono le aree di opacità e di non conoscenza, probabilmente anche eventuali miglioramenti sul testo sono destinati comunque a non apportare un significativo miglioramento. Quindi è essenziale. Poi non ci dimentichiamo che al di là delle fattispecie previste, poi vige sempre, per esempio, il segreto istruttorio delle autorità, certo, che certo, sono tenute. Quindi comunque in Italia abbiamo degli, degli ambiti vastissimi. No, questo è il motivo per esempio, tutte le indagini che sono in corso su quello che è avvenuto, l'attività di vigilanza nelle banche risolte e in altre banche italiane, senza una commissione parlamentare d'inchiesta che non si farà più, non ci consentono di capire che cosa è avvenuto davvero in questi anni. Io sono molto critico su come i regolatori italiani si stanno salvando la pelle raccontando che la colpa è degli altri rispetto a quello che non hanno fatto in questi anni. Eppure si deve al fatto che appunto non abbiamo diritto a questo punto all'accesso a dati che sono tutti confluiti, coperti dal segreto istruttorio nelle indagini che stanno facendo la procura. E quindi continuiamo così, a giocare a mosca cieca e ad accettare di essere sudditi invece che cittadini. Certo, mi stupisce molto che il governo abbia emanato un testo di questo genere, veramente una cosa pazzesca. Grazie a Vital Bazzolini non sapremo quanto vengono pagati i dirigenti Rai, ma pagheremo tutti il canone in bolletta. Muti, zitti come sudditi. Continuate alle 8:15 domani mattina, appuntamento con Milan e me, ad attenti a noi due. Basta! Basta! Basta! Basta!